Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qua! Non c'è Belen, ci sono io, Belan. Ecco qua, sono una farfalla cavoiaia che si nutre di teste di cavolo come te. Senti. Scusami, non ce l'ho tatuata nel linguine? Io non volo di fiore in fiore. La sua sarà famosa, ma anche noi ne abbiamo una. Si trova alla base del collo, più o meno dove si chiude l'ultimo bottone della camicia. Non potete vederla, ma fidatevi, ce l'abbiamo anche noi, la farfallina e la tiroide. Voglio parlarne oggi perché questa ghiandola ha un'importanza strategica per la nostra salute psicofisica. Essenzialmente cosa fa? Produce due ormoni e con questi controlla moltissime funzioni chiave del nostro organismo. E ce la fa sino a quando tiene il ritmo giusto, se non decide per varie ragioni di strafare o di battere la fiacca, di rallentare o di accelerare. Ma anche noi possiamo convincerla ed aiutarla a mantenere il ritmo giusto e a lavorare per noi, soprattutto per il nostro benessere. Lo faremo oggi insieme al dottor Alessandro Pizzocaro, che è endocrinologo, andrologo dell'unità operativa di urologia di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E qua in studio con me il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica. Dottore, buongiorno. Buongiorno ancora. È venuto a prendersi un po' di raffreddore da me. Sì, sì, assolutamente. Fantastico, una sorta di vaccino. Dottor Pizzocaro, le leggo subito un messaggio che è arrivato da Facebook. Prego. Come mai un sacco di donne hanno problemi alla tiroide? Ci scrive Lorenzo. Ok. Innanzitutto il motivo è perché sicuramente la causa principale di alterazione della funzione tiroidea è il meccanismo autoimmune, che è assolutamente molto più frequente nella donna che nel maschio. Si pensi che l'ipotiroidismo acquisito, che è intorno all'1%, che ha come causa l'attacco dei linfociti contro la tiroide, è molto molto più frequente nella donna che nell'uomo. Tant'è vero che il rapporto maschi e femmine è 4-1, questo probabilmente perché l'estrogeno ha un effetto sul sistema immunitario, per cui scatena più facilmente tutte le malattie autoimmuni, così come l'ipertiroidismo, il famoso malattio morbo di Graves-Basedow, sì, che è caratterizzato proprio da tutti i sintomi dell'ipertiroidismo, come il classico oftalmopatia con l'esoftalmo con gli occhi in fuori, ha una prevalenza fino al 5%. E quindi, insomma, questa ghiandola, dottor Speciani, ama le donne ma non risparmia neanche gli uomini, può funzionare poco, può funzionare troppo, ma io mi rifaccio di un articolo scritto da lei, che l'ho letto su Eurosalus: dimmi come mangi e ti dirò che tiroide hai. Perché? Perché la tiroide è la nostra funzione energetica. A me piace pensare che in realtà quello che ha differenziato il pesce dall'anfibio, che è una cosa fantastica nella storia, cioè i pesci vengono fuori 350 milioni di anni fa e iniziano a mettere fuori quattro zampette per iniziare a muoversi sul terreno, e la tiroide, bellissimo questa idea, cioè vuol dire che iniziamo ad avere un centro di elaborazione dell'energia, e quindi è una situazione fondamentale. Noi non possiamo, come dire, come si dice, non cade foglia che Dio non voglia, ecco, non succede niente se la tiroide non funziona, perché è veramente questo. Allora, abbiamo delle situazioni, scusate se l'ho presa da lontana, ma proprio delle situazioni evoluzionistiche estremamente importanti. Quindi se noi non mangiamo al mattino, se non abbiamo degli orari, se non c'è un corretto bilanciamento di carboidrati e proteine, ecco, la tiroide ne risente e riceve dei segnali. Sono forti. Pensiamo che, ad esempio, c'è addirittura rispetto a quello che sente il nostro tessuto grasso rispetto al nostro radar, sì, dell'alimentazione, quindi capiamo come funziona. Abbiamo dal cervello, dal nucleo arcuato, che è una parte importantissima del cervello, anziché avere degli ormoni che vanno navigando nel flusso sanguigno, eccetera, abbiamo addirittura delle linee dirette neuronali che, quindi velocissime, riconoscono se tu stai mangiando bene, zac, accentuano la funzione della tiroide. Quindi è ovvio che anche la parte alimentare ha una sua importanza e può essere gestita. Quindi, dottor Speciani, noi attraverso l'alimentazione riusciamo a far sì che la tiroide continui a lavorare bene, né troppo poco, perché i problemi iniziano quando cambia il ritmo. Sicuramente sì, e secondo me questa cosa può dare una mano, come di fatto avviene nella nostra pratica clinica, per cui l'azione dell'endocrinologo, che spesso deve modulare attraverso l'attentissimo uso dei farmaci, e spesso capita che, migliorando la parte alimentare, ribadisco, una piena prima colazione entro un tempo rapido, quindi entro un'ora dal risveglio, è uno degli elementi che maggiormente attiva un ormone che si chiama leptina e che questo va poi ad agire direttamente sui centri che vanno a far funzionare la tiroide. Allora questa cosa può consentire anche delle belle sinergie con l'endocrinologo, in cui una persona, anziché sentirsi solo malato o in condizioni di disagio, capisce che può anche prendere un po' di redini nelle proprie mani e dare una mano al medico che lo sta guidando. Dottor Pizzocaro, abbiamo detto che la tiroide è una farfallina, ma è una vera VIP, entra e partecipa a tantissimi processi, vogliamo ricordarli? Certamente, l'azione degli ormoni tiroidei è molteplice su praticamente tutti gli organi dell'organismo, sì. Per esempio sul cervello e sulla crescita nel feto ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema nervoso, nella crescita corporea, infatti una carenza di produzione proprio durante la vita fetale di ormone tiroideo provoca ritardo mentale, il famoso cretinismo e nanismo, che era molto frequente, dico era perché per fortuna adesso facciamo la profilassi per lo iodio utilizzando il sale iodato, lo era nelle aree di carenza iodica come la Val d'Aosta, certo. Per esempio. Sul metabolismo e sul tessuto adiposo, gli ormoni tiroidei, ricordiamo che sono responsabili di circa un terzo del metabolismo a riposo. Infatti un aumento degli ormoni tiroidei provoca un incremento del consumo di ossigeno con potenziamento della termogenesi. Infatti, infatti, dottore, noi quando magari aumentiamo di peso, ma soprattutto quando non riusciamo a dimagrire nonostante la dieta, diciamo, è un problema della tiroide, almeno lo diciamo noi donne. Quindi è molto legata anche alle variazioni di peso, ma per essere più specifica alla difficoltà di mantenere il peso forma. E poi, dottore? Sì, e poi quindi dicevo, stimola quindi anche la lipolisi, viceversa chiaramente la carenza ne provoca un incremento borderare riducendo la lipolisi ovviamente, poi stimola il sistema cardiovascolare migliorando la forza di contrazione vascolare ma anche la frequenza cardiaca, l'ipertiroideo classicamente al cosiddetto batticuore. È importante anche sull'apparato riproduttivo perché sappiamo che un eccesso o una riduzione degli ormoni tiroidei può provocare infertilità sia nell'uomo che nella donna, per esempio l'ipotiroide nella donna determina ha un incremento di prolattina che va a bloccare l'ovulazione e questo può creare problemi anche in particolare per quanto riguarda la fertilità di coppia, che sappiamo essere un problema sempre più emergente. Assolutamente. Nella nostra società. Quindi, dottor Speciani, ipo e iper, proviamo a raccontare brevemente, a tratteggiare quelli che sono i segnali che la nostra tiroide ci manda quando cambia ritmo. Però vorrei dire una cosa importante anche per evitare. Perché noi sappiamo che spesso le donne fanno tutto pur di perdere qualche etto. Allora, anche gli uomini. Esatto. però è vero che se è vero che gli ormoni tiroidei possono facilitare per un po' con la lipolisi, anche persone che sono sovrappeso, grassocce, e che dicono oh, adesso prendo tanta tiroide, ce l'ho qui nel cassetto, quindi ne prendo di più, in realtà fanno un errore, perché superato un primissimo effetto, in realtà la tiroide fa consumare muscoli, gli ormoni tiroidei presi in eccesso fanno consumare muscoli, ti fanno venire la tachicardia e ti fanno male ai muscoli da tutte le parti, quindi lo dico perché altrimenti potrebbero essere certo, mal interpretate le possibilità di giocare, no, con queste cose. E vediamo come sono gli ipertiroidei e gli ipotiroidei, ma io mi immagino proprio, cerchiamo di vederlo, una persona un po' grossa, goffa, con la faccia gonfia, che fa fatica anche ad alzare gli occhi, che quindi quando la chiami risponde a fatica, si muove con lentezza. Ecco, questo è il classico ipotiroideo, mentre quando pensiamo alla signoretta o al signoretto completamente stressato, completamente asciutto, magro, saltellante, che con gli occhi strabuzzanti, che si muove da tutte le parti tipo d'argento vivo, questo potrebbe essere una caratteristica da iper. Quindi stiamo esagerando, esatto. Ma per creare due profili, 800 24 00 24, potete seguirci su Facebook e su Twitter, potete anche raccontarci la vostra giornata alimentare tipo per dare modo al dottor Speciani di capire come funziona la vostra tiroide e naturalmente approfittare del dottor Alessandro Pizzocaro per capire quali sono i segnali, gli esami che ci permettono di fare un tagliando di questa ghiandola così importante. Veronica ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno Veronica, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Mi racconti, Veronica? Allora, io chiamo per mia sorella. Sì. Praticamente mia sorella ha la tiroide di Hashimoto. Sì. Però ha il TSH nei limiti e gli anticorpi alti. Però non prende la pillola. Ecco, volevo sapere se la deve prendere e poi eventualmente per quanto riguarda l'alimentazione, cosa mangiare, cosa evitare. tra l'altro sì, mi sono allenato un po' di stitichezza, così. Quanti anni ha sua sorella? Male. Veronica, quanti anni ha sua sorella? 32, perché ci sono, dottor Pizzocaro, perché anche l'età conta per il funzionamento della tiroide? Ma allora, innanzitutto conta nel senso che sappiamo che la tiroidite di Hashimoto è più frequente, oltre che nella donna, nella terza quarta decade di vita in cui classicamente si manifesta. Che cos'è per noi che non lo sappiamo? Intorno ai 45 no, anni. No, ma la tiroidite di... Ah, okay. Sì, no, perché tutti sbagliano. Il termine 30, ite, il termine allora, ite sì. Ci fa capire che è un'infiammazione. Esattamente. Allora, cosa succede? Che per un errore del sistema immunitario che si eredita da mamma o da papà, il soggetto ereditizia la predisposizione a non riconoscere come self, come proprio, alcuni costituenti dell'organismo, in questo caso la tiroide, e li attacca tentando di distruggerla. Si crea, questo comportamento solo nel momento in cui intervengono anche dei fattori esterni a completare la predisposizione, che sono probabilmente fattori virali, fattori ambientali, non lo sappiamo, però a un certo punto della propria vita si manifesta questa infiammazione, cioè noi abbiamo gli anticorpi che quindi si formano contro il tessuto tiroideo che non viene riconosciuto come proprio e i linfociti che attaccano la tiroide creando un'infiammazione. Se noi andiamo a vedere l'ecografia, classicamente la tiroide è proprio un aspetto infiammato con disomogeneità ecostrutturali e a volte noduli. Questa infiammazione però, attenzione, che non dà segni di sé come dolore, ma dà solo i segni dell'alterata funzione. Quando certo. funziona poco, dai segni dell'ipo. Quando funziona tanto, dai segni dell'ipo. E dottor Speciani, Veronica ci chiedeva, giustamente, stimolata anche da noi, che cosa può fare e come, cosa intanto, deve fare con rispondo, l'alimentazione. Rispondo da immunologo. Certo. Visto che sono stati tirati in ballo i linfociti e gli anticorpi. E dico che se è vero quello che dice Pizzocaro, che quindi ad un certo punto può anche alterarsi, c'è tutto un periodo in cui può anche non succedere niente. E questo secondo me è bellissimo, perché le persone trovano che hanno degli anticorpi, è giusto che abbiano una cautela, guardandosi, curandosi un po', mangiando. Adesso discutiamo cosa può fare la sorella 32enne di Veronica, però a volte noi abbiamo semplicemente gli anticorpi, la tiroide funziona bene, la guardiamo e pur sopravviviamo, diciamo, senza porci troppi problemi. Io sono profondamente contrario all'idea di utilizzare le pillole immediatamente, a meno che non ci siano dei segni clinici precisi. Allora, cosa mangiamo? Ti cito, Veronica, un po' di elementi positivi. Intanto, per favore, frutta, verdura in maniera abbondante sempre. L'utilizzo dell'integrale piuttosto che non di prodotti raffinati. Ci sono alimenti, poi se viene, lo sentivo, parlava dalla Calabria. Sì, da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Allora, le cozze che sono ricche di iodio, sono fantastiche. Io amo, sono un amante delle cozze, quindi cozze e alcuni alimenti che contengono della tirosina, che è pure un'altra sostanza che fa del bene alla tiroide, che sono ad esempio il petto di tacchino e il parmigiano reggiano, che quindi è il formaggio grano. Ecco qua, dai, ecco, ce l'abbiamo abbastanza. Una dieta, dai, che ottimo. Piace alla tiroide, la nostra farfallina, che abbiamo detto ce l'abbiamo tutti, ma si accanisce con noi donne, anche se l'altra metà del cielo non deve tanto cantare vittoria, no, perché giuro, come facciamo, vedremo la farfallina ce l'avete anche voi e può anche alterarsi e quindi dare dei piccoli problemi, dei segnali. Noi sappiamo che la farfallina può alterarsi, lo sappiamo, ecco, benissimo. Lo sapete bene, andiamo a sentire la nostra scenetta. Ciao, che mani fredde. In questo periodo me lo dicono tutti. Ma come stai? Sei un po' pallida. Né bene né male, così così. Sai, non dormo bene, quindi non ho tanta energia. Ho l'umore che va su e giù. Beh, lunatica lo sei sempre stata. Ma da quando sei a dieta sei anche peggiorata. Non dirmi niente, non calo di un grammo. E poi tu mi dici pure che sono lunatica. Beh, chiunque si demoralizzerebbe. Tanti sforzi per niente. Ti dico poi che non è sceso neppure il colesterolo, ecco. Dai, non buttarti giù. Carlo ti ama appassionatamente. Sì, la passione lui ce la mette. Sono io che... diciamo che la mia di passione ha vissuto tempi migliori. Insomma, due chiacchiere tra amici abbastanza intimi. Ma, dottor Pizzocaro, che cosa le suggerisce dopo aver origliato questa scenetta? Beh, sicuramente sappiamo benissimo, visto che stiamo parlando di tiroide, che la tiroide comunque crea, oltre a dei problemi di fertilità, anche evidentemente dei problemi di sessualità, che per carità è più studiata nel maschio, perché nel maschio sappiamo benissimo che è l'ipertiroideo nel 50% dei casi è un eiaculatore precoce, perché abbiamo un sequestro da parte delle proteine di trasporto del testosterone, che è l'ormone maschile, quindi ce n'è meno disponibile per essere utilizzato. Nella donna probabilmente nell'ipotiroidea, che è qui in questo che è il caso della nostra, probabilmente della nostra paziente, oltre a creare problemi di ovulazione, l'incremento evidentemente della prolattina può creare in qualche modo una riduzione quindi degli steroidi sessuali, ivi compreso il testosterone, che è responsabile della libido anche nella donna, che viene prodotto in questo caso oltre che dal surrene anche dall'ovaio, venendo prodotto meno, probabilmente anche un difetto di desiderio. Quindi la tiroide ha a che fare anche con il desiderio, dottor Speciani, e qua si spiega perché la nostra amica, la ragazza della scenetta, diceva: sì, la passione lui ce l'ha, ma diciamo che la mia ha avuto tempi migliori. Oh, assolutamente. Non dimentichiamo però che nella scenetta la ragazza dice, il ragazzo dice: ma da quando sei a dieta sei sicuramente peggiorata. Allora questo è uno degli elementi importanti. Perché questo lo dite sempre, vero? No, non per questo. Dite non per anche questo. Quando hai il ciclo, se hai l'umore cattivo. Non certo, è, noi, non esatto, è un vostro cavallo di battaglia. Impariamo dei mezzi per difenderci. Va sì, bene, perché al ce li insegnano fin da piccoli. E quindi il concetto è che la gente spesso fa delle diete ipocaloriche. Mm. Anzi, quasi tutte, se andiamo certo. in giro. Io devo dire, spesso sono in conflitto, perché io invece suggerisco delle diete normocaloriche ma ben bilanciate, e questo cambia. Però in una dieta ipocalorica cosa succede? Che è come se l'organismo entrasse in una fase di digiuno. Noi percepiamo questo senso di povertà e quindi il nostro ipotalamo, che gestisce anche la tiroide, dice: non c'è più da mangiare, sarà meglio, per cercare di sopravvivere, abbassare tutte le funzioni inutili. E quindi questa cosa porta, se non siamo in necessità di sopravvivenza e di procreazione della specie, porta ad una riduzione un po' di tutte le funzioni, questo abbassamento, questa riduzione di tono. E quindi questa ragazza a dieta, in più che cosa succede? Succede che quando uno è a dieta toglie gli oli, toglie le uova, toglie quindi altri apporti tipo vitamina D ed altro, che sono importantissimi anche nella gestione della nostra storia. Per cui sicuramente c'è questo aspetto di caduta della libido, questa situazione di riduzione, perché è come se l'organismo si sentisse povero. Abbiamo detto prima, la tiroide è l'espressione della capacità di muovere l'energia, e quindi in una situazione del genere è ovvio che uno anche la voglia e i desideri di come l'ha chiamata, la passione, sicuramente ha avuto tempi migliori. 800 24 00 24 se volete restare con noi, parliamo di tiroide, ma soprattutto cerchiamo di capire quali sono le strategie per aiutare questa ghiandola così preziosa a lavorare bene. Non deve lavorare troppo, non deve lavorare troppo poco, ma vorremmo oggi anche con l'aiuto dei nostri esperti individuare quali sono i segnali un po' sospetti che ci fanno capire che potrebbe essere spiegato magari la nostra stanchezza, la nostra difficoltà a perdere peso o una certa irritabilità, potrebbero essere invece segnali che ci manda la tiroide. Allora cosa fare? Magari fare due chiacchiere con il nostro medico curante, perché la tiroide è una ghiandola di cui si può sapere tutto subito, facilmente, dottor Speciani, basta un esame del sangue. Assolutamente, direi che oggi addirittura anche per beghe e carenze di fondi del Servizio Sanitario Nazionale, un primo esame, che è semplicemente quello del TSH, può essere spesso sufficiente per capire se la tiroide sta funzionando o meno. TSH è l'ormone che regola la produzione poi degli ormoni, quelli effettivi, no? Quelli che funzionano. Capire, siccome funziona come il termostato di uno scaldabagno, e quindi si accende e si spegne in relazione a quanto se ne trova. Per cui noi capiamo da lui, che è un esame abbastanza semplice da fare e non troppo costoso, possiamo avere un'indicazione di massima. È ovvio che poi magari l'endocrinologo andrà più precisamente a sondarne degli altri. Essere e benessere. Un fiore in bocca può servire, non ci giurerei, ma dove voli, farfallina, non vedi che sono qui come un fiore. La nostra preziosa farfallina, anche la vostra, dottor Speciani, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo uguale, l'abbiamo individuata, più o meno alla base del collo. Sì, più o meno sta un lì. Sacco di cose sopra, si accanisce un pochino di più con noi donne, dottor Pizzocaro, specialmente in una fase importante della nostra vita, gravidanza e menopausa, è vero? Allora, sicuramente la gravidanza in particolare è un momento importante in quanto i nostri anticorpi vengono proprio stimolati dagli ormoni della gravidanza e quindi sì. Si creano più facilmente queste tiroiditi autoimmuni. Come faccio ad accorgermene? Allora, consigli per le mamme in gravidanza. Allora, consigli per le mamme è comunque controllare il TSH, soprattutto in presenza di familiarità, perché voglio ricordare che dalla prima alla dodicesima settimana di gravidanza il feto non ha la tiroide, tutto l'ormone tiroideo lo prende dalla sua mamma. Tant'è vero, certo. Io che lavoro in un centro in cui si fa fecondazione assistita, tutte le donne che intraprendono il percorso fanno sempre il prelievo per il TSH e in caso anche degli anticorpi, soprattutto se c'è familiarità, proprio perché in caso si scopra la presenza di questi anticorpi, si dà generalmente l'ormone tiroideo per evitare, quindi prevenire, certo. Il fatto che ci possa essere una carenza di questi ormoni, a differenza ovviamente delle donne che non devono intraprendere una gravidanza in cui il TSH rimane sempre comunque il riferimento prima per di trattare, come diceva certo. Il dottor Speciani, mai trattare prima che sia necessario. Oh, questo ci piace. Alcune situazioni particolari. Senta, andiamo alla menopausa invece? Che cosa dobbiamo guardare? Quali segnali dobbiamo... No, posso dire una cosa? Sì, io certo. Da piccolo mi insegnavano, quando studiavo scienze alle medie, che si facevano esperienze con i girini, che se non gli mettevi dentro un po' di tiroide, il girino non riusciva a crescere. Quindi questa cosa che fa parte dell'esperienza classica, quindi queste robe per cui si mettevano girini presi negli stagni, quando non ancora c'erano gli stagni e li si mettevano nella vasca con urla e strepiti delle sorelle. Sì. Però se non mettevi un po' di ormone tiroideo, i girini non diventavano ranocchio. E no, poi non diventavano esatto, principe. No, questo per dire, esatto, che è fondamentale. Perché è qua, ecco perché non ci sono più gli uomini di una volta, perché non ci sono più i ranocchi. Dottore, dicevamo in menopausa è un altro momento critico, perché poi passiamo alle telefonate. Intanto saluto Luca da Pisa e Antonio da Pordenone, siamo subito da voi, ma chiudiamo sulla menopausa. Sì, beh, è chiaro che in menopausa... subentrano le alterazioni del ciclo e quindi di conseguenza entrando in menopausa la donna inizia a non avere più i cicli, magari inizia a sentirsi comunque più depressa, più stanca, quindi è molto difficile riuscire, a meno che non ci sia proprio una forma di ipotiroidismo importante, a capire quali sono i sintomi. Quindi generalmente quando la donna inizia a entrare in menopausa, io consiglio, oltre a controllare l'ormone FSH che spesso tutti i ginecologi consigliano, sì. Almeno un TSH io consiglio sempre di controllarlo. Ecco, quindi segniamoci almeno questa sigla TSH e andiamo a Luca che ci chiama da Pisa. 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. La mia domanda, sono un po' perplesso. Perché? Perché dopo anni che ho fatto lo iodio per la tiroide e prendo l'Eutirox da anni, ho scoperto una cosa che causa anche una eiacolazione precoce. E sono rimasto sorpreso. Ha detto, ma questi cosa dicono? Ma c'è stato tra l'altro uno studio, vero, dottor Pizzocaro? Uno studio tutto italiano? Tutto italiano, fatto all'Università di Roma e dell'Aquila, in cui hanno dimostrato che, attenzione, l'ipertiroideo, cioè chi fabbrica un eccesso di ormone tiroideo, così come in questo caso chi prende troppo ormone tiroideo, ci rilasciamo a quello che diceva prima il dottor Speciani, attenzione, non esagerare con l'ormone tiroideo, può avere problemi di eiaculazione precoce, ma chi prende la sua tiroxina, in questo caso quindi l'Eutirox, quindi l'ormone tiroideo, nelle dosi giuste non può avere questo problema, se non per altre cause. Che dottor Speciani. Esatto, questa cosa secondo me è importante da cogliere, perché in realtà la tiroide è un organo di risposta allo stress, quindi serve quando noi stiamo vivendo una situazione di pericolo, la tiroide viene attivata per consentirci di avere il massimo dell'energia, un po' come la corteccia surrenale, no? Sono due funzioni immediate. Allora, questo va capito, perché se è vero che da un lato ci può essere una situazione tiroidea da studiare, cioè l'ipertiroidismo, dall'altro c'è un tale eccesso di stress per altri motivi che ti porta obiettivamente a sintomi che sembrano molto simili e sono invece legati al fatto che tu non sai gestire ancora in equilibrio la propria storia. Quindi impariamo a capire i segnali che arrivano dai disturbi. Io credo che una situazione come questa merita di essere capita dal punto di vista fisico e metabolico e ormonale, quindi dosaggio della tiroide e della tiroxina che viene usata, e dall'altra parte parte, però anche capire qual è il livello di tensione emotiva che noi stiamo mettendo sia perché, nel rapporto sessuale sia nella vita che magari precede perché il rapporto lo sessuale. Stress certo. Ha delle influenze negative anche sul funzionamento della tiroide e anche sul funzionamento della, certo. del controllo dell'eiaculazione, quindi siamo di fronte ad una situazione che è un po' da guardare con ambivalenza. Allora il nostro ascoltatore che giustamente sta domandandosi deve da un lato considerare se non sta prendendo troppa tiroxina, che è una cosa talvolta possibile, e dall'altra parte se invece non sta vivendo in maniera talmente stressata da arrivare avere a vivere un po' male. Una calmata. Angelo dalla provincia di Chieti e poi Antonio da Pordenone. Buongiorno ad Angelo. Buongiorno a lei, io chiamo per conto di mia moglie, per avere un quadro un pochino se può fare. Senta Angelo, facciamo così, la richiamiamo perché la sentiamo malissimo e andiamo ad Antonio da Pordenone, richiamiamo intanto dalla regia Angelo. Antonio, buongiorno. Eccolo, a tutti. Antonio. Grazie mille, buongiorno a tutti, a lei e ai dottori. Buongiorno, ci dica. Allora, io vi chiamavo non per me, ma per mia moglie. Ascoltavo la trasmissione, ero molto interessato, ecco. Perché mia moglie è stata operata, non ha più la tiroide. Quindi nasce qui il problema. Dopo la seconda... Com'è? Noi siamo pronti. Dopo la seconda. E lei si è interrotto sul più bello. Dopo la seconda... Sì. Dopo la seconda gravidanza, ecco, quei 4-5 kg in più non è più riuscita a eliminarli. Pur avendo fatto delle diete, eccetera, non avendo un'alimentazione particolarmente pesante, eccetera. Tra l'altro... Però vede che ecco. Però ecco, sa, le donne ci tengono e fa fatica pur avendo tutti i controlli, certo. Le analisi, prendendo le sue pastiglie. Allora, due domande mi suggeriscono. Antonio, lei mi aiuta a formulare due domande. La prima, come si vive senza tiroide, quali attenzioni bisogna avere? E la giriamo naturalmente all'endocrinologo. Mentre al dottor Speciani, dato che la moglie di Antonio senza tiroide non riesce a perdere i chili, potrebbe esserci il sospetto che ha sottolineato lei, diete troppo drastiche possono comunque far andare in tilt il nostro peso, ma magari qualche indicazione utile possiamo darla. Dottor Pizzocaro, sì. Allora, come si vive senza tiroide? Ci sono delle attenzioni che bisogna avere? Allora, senza tiroide si vive perfettamente uguale agli altri, purché si prenda correttamente l'ormone tiroideo secondo le indicazioni e le quantità mediche, ossia rispettando assolutamente il digiuno, nel senso che l'ormone tiroideo va preso almeno mezz'ora, sottolineo, almeno mezz'ora prima della colazione. Non è importante l'orario a cui lo si prende, perché l'ormone dura tanto nel sangue, quindi non è che uno deve stare con l'orologio, ma è importante soprattutto il fatto di prenderlo a digiuno, okay? Aspettando almeno mezz'ora. Poi dal punto di vista della qualità di vita è la stessa identica, perché l'ormone tiroideo fondamentalmente è T4, la famosa T4, sì. Prodotta dalla tiroide, che poi viene trasformata nella forma attiva che è la T3 dagli organi dell'organismo a seconda. Quindi noi quello che non c'è aggiungiamo. Esatto, si vede perfettamente uguale agli altri. Mi raccomando, a digiuno. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme. Conosceremo anche un altro ormone che solitamente associamo al sesso maschile, il testosterone. Ne parleremo tra poco, ma naturalmente indicazioni del dottor Speciani per far funzionare bene, continuare a far star bene la nostra tiroide facendo le scelte giuste a tavola. Essere e benessere. E siamo tornati insieme a 800 24 0024, parliamo oggi di tiroide, lo facciamo proprio perché vogliamo che questa ghiandola continui a funzionare bene, è importante, non deve funzionare troppo o troppo poco, ci manda a volte dei segnali che sono sfumati, a volte la tiriamo in ballo quando inutilmente, ad esempio quando pensiamo che il nostro sovrappeso dipenda da un cattivo funzionamento della tiroide, magari dipende invece solo dalla scarsa attività fisica e da quello che mettiamo sul piatto. Ma andiamo ad Angelo, che ci chiama dalla provincia di Chieti, e poi ritorniamo sull'alimentazione col dottor Speciani. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dunque io lo chiamo per un problema che si è verificato a mia moglie. Volevo sapere se più o meno si può riagganciare il discorso tiroide. Sì. Cioè mia moglie praticamente ha iniziato delle diete da 3-4 anni, mantenendosi poi la carne, fa uno spuntino la mattina, poi mangia la pasta e la sera cena con Conflex. Praticamente alimentazione molto molto molto leggera, però ultimamente accusa molta stanchezza, poi sente molto freddo e soprattutto non riesce a riposare. E un altro discorso è legato anche al fatto del desiderio, diciamo, ecco. Sì. Ha avuto anche un calo del desiderio. Dottor Speciani annuisce qua che perché dottor Speciani? Perché tutto torna. È giusto che se la metti torna, così rispondiamo anche ad Antonio che certo. Prima è rimasto in tramezzo. Certo. La dieta che racconta, fatta da sua moglie, è una dieta che elimina drasticamente le proteine, che possono essere di qualsiasi tipo e genere, anche restando nell'ottica, anche volendo essere prettamente vegetariani, abbiamo la possibilità di utilizzare comunque delle ottime proteine, a partire da quelle delle uova, a partire da quelle delle mandorle, delle nocciole. Quindi nella sua descrizione è ovvio che di fronte ad una carenza di alcune sostanze l'organismo risponde abbassando tutti i livelli di rapporto col mondo esterno. Quindi non solo il rapporto personale, ma anche quello interpersonale, come si suol dire. Certo. Per cui è chiaro che in quest'ottica si vanno a creare degli squilibri complessivi che sono abbastanza ampi, che prendono conto un po' di tutti gli ormoni che stanno circolando, quindi non solo quelli femminili ma anche quelli anche apparentemente solo maschili, come il testosterone, che invece sono presenti anche nelle donne in maniera adeguata. A proposito di testosterone, abbiamo fatto un mini sondaggio, sentite. E vado su, e vado giù, giù. Penso sia un ormone, anzi senza penso. So che è un ormone, però non so effettivamente su cosa incida. È l'ormone maschile per eccellenza. Un ormone responsabile della caratteristica maschile. Il testosterone? Ora precisamente non mi viene in mente cos'è. Il testosterone è l'ormone maschile che dovrebbe servire per la procreazione. Allora, il testosterone in questo momento mi sfugge. Sì, sarà più per l'uomo, penso. Il testosterone. In linea con noi abbiamo il professor Bruno Giammusso, responsabile dell'unità operativa di andrologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha sentito il nostro mini sondaggino? Qualche idea? Sì. Insomma, un po' di idee le abbiamo. Sì, però. Beh, il sondaggio ricalca un luogo comune tradizionale per il quale il testosterone è l'ormone della virilità, quindi l'ormone del maschio, e presiede alle funzioni della sessualità. In effetti questo è molto riduttivo, perché il testosterone non è soltanto questo. Anzitutto, come si è già detto, il testosterone è un ormone importante anche nella donna. Nell'uomo è prodotto dai testicoli, nella donna è prodotto dalle ovaie e dalle ghiandole surrenali, e in parte anche dal tessuto adiposo. Ed è un ormone importante perché presiede nella donna al desiderio, per esempio. Forse non molti sanno che esiste proprio un prodotto a base di testosterone per il deficit di desiderio femminile nelle donne che hanno subito asportazione delle ovaie. Ma serve anche a mantenere il tono muscolare, serve a mantenere la mineralizzazione delle ossa, quindi è un ormone importante anche nel sesso femminile. E per quello che riguarda il sesso maschile è riduttivo considerarlo l'ormone della sessualità, perché è un ormone fortemente coinvolto innanzitutto nella salute generale. Anche qui è l'ormone che governa il trofismo dei muscoli, la mineralizzazione delle ossa, ma è un dato recente che è venuto fuori negli ultimi anni che è un ormone che è fortemente coinvolto nella salute del cuore e dei grossi vasi. Quindi, in che senso, professore? Nel senso che i soggetti con ipogonadismo, che è la condizione caratterizzata da bassi livelli di testosterone, vanno più facilmente incontro a malattie metaboliche come il diabete, come la dislipidemia, quindi l'eccesso di colesterolo nel sangue, e hanno una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari, quindi di cardiopatia ischemica, ad esempio, o di aterosclerosi. Poi i soggetti che hanno bassi livelli di testosterone hanno maggior adiposità, obesità viscerale, cioè accumulano grasso nell'addome. E questo grasso... sappiamo che è un fattore di rischio proprio per la salute cardiovascolare, la pancia. La pancia. Ecco, così. Siamo partiti dagli ormoni, siamo arrivati al cuore, occorre però misurarli. Dottor Pizzocaro, possiamo quindi dare una controllata anche al testosterone? Come e quando? Allora, assolutamente sì, è possibile con un semplice prelievo per il testosterone totale, è un semplice prelievo di sangue che va effettuato anche considerando che dall'età dei 40 anni il testosterone cala progressivamente a seconda delle statistiche dal 0,5 al 2%, e quindi cosa succede? Che addirittura, a parte nei casi comunque come diceva il professor Giammusso, come i pazienti con il diabete o con malattie importanti cui sappiamo comunque calare, anche nel soggetto in salute è sempre più evidente che è importante sapere quali sono i valori di testosterone già dell'età di 40 anni, perché il testosterone è un indice di buona salute, e pertanto sapere che un testosterone ti cala può essere proprio spia del fatto che l'organismo si sta ammalando. Quindi professor Giammusso, il testosterone si misura attraverso quale esame? L'esame del testosterone totale, un prelievo di sangue da fare al mattino, sì, che misura i livelli del testosterone totale. Quindi lasciamo con questa indicazione, dottor Speciani, la dieta c'entra col testosterone oltre gli anni? Nel momento in cui la nutrizione è un elemento che dà l'energia e la forza per affrontare la vita, e quindi compreso anche la procreazione, il corteggiamento, la sessualità, la dieta c'entra. Sì, valgono le cose dette prima. Anche col testosterone valgono, certo, le cose dette per gli ormoni tiroidei. In una carenza proteica, gente che fa diete ipocaloriche strette o gente che sta mangiando eccesso di zuccheri si troverà con valori alterati. Persone che mangiano in maniera sana possono trovarsi funzionanti anche a 75, 80, 90 anni. Allora, ringraziamo il professor Bruno Giammusso che è stato con noi. Grazie professore. Grazie a voi, buona giornata. Il dottor Alessandro Pizzocaro di Humanitas, buongiorno anche a lei, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Il dottor Attilio Speciani ci dà ricordo. Ricordiamo questo bellissimo libro che per me è una piccola Bibbia, Dieta, certo, Gift, Dieta di segnale, il metodo Speciani che cambia per sempre il modo di alimentarsi, dove ci sono proprio tante indicazioni utili per mangiare bene senza privarsi del gusto ma guadagnando salute. Guarda come mi è venuta bene. Che bello. Grazie al dottor Speciani, a Gianmarco a Ferronato in regia la parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Ho ancora 10 secondi per dirvi, per augurarvi una buonissima giornata e per dirvi che come sempre io vi aspetto domani. Buona giornata. Essere e benessere.